24 mattino. Allora Carlo mi aiuta e mi dà lo spunto per fare una precisazione su una cosa ho detto prima. 8:18:38 stavo spiegando, ma evidentemente ho comunicato il contrario, che Alessandra Mussolini, che ogni volta dice mio nonno Ostia potrebbe fare bene, lasciasse stare suo nonno. Volevo dire che Mussolini non è il nonno di Alessandra Mussolini, ma è il padre della dittatura per tutti gli italiani. Cioè non è un pezzo di una storia privata, i parenti, soprattutto quelli che non hanno conosciuto, non amministrano una storia privata, ma ovviamente un pezzo drammatico della storia italiana. Questa è una precisazione che andava fatta, se no qualcuno dice ma Telese stamattina è impazzito. E qui con me il grande Oscar Giannino in lilla, è lilla questo maglione, ecco. E il momento dei cani e dei gatti, e già stiamo discutendo, perché io sinceramente ero molto interessato a questo problema della tassa, della cedolare secca sull'Airbnb, che l'antitrust, con un provvedimento che avete sentito non è vincolante, boccia, no? Si può dire boccia, perché boccia, dice boccia la norma sull'equo compenso dei professionisti, boccia le norme sulla SIAE, boccia tutte le norme sulle quali i cretinotti come me e quattro gatti di liberali dicevano: guardate che l'intento dichiarato contrasta però con i principi generali dell'ordinamento, cioè sono norme che pongono limiti alla concorrenza spiazzanti. In questo caso gli albergatori protestano dicendo al governo non dare retta, perché dai una mano agli evasori, e mettono per così dire le impronte digitali su questa norma che nasce dall'intento che vi sia una concorrenza impropria tra due offerte che sono totalmente diverse, cioè non sono concorrenti degli albergatori, e così vengono spiazzati, dovendo oltretutto fungere da sostituto d'imposta che accresce le loro Oscar, spese. Ma pensi che il governo recepirà questo parere? Ma non siamo in campagna elettorale, queste norme sono tutte figlie di accordi con le categorie. Vediamo, il governo secondo me dovrebbe, però non mi sorprenderei nemmeno del contrario. Però allora, a quel punto queste autorità cosa le abbiamo a fare se fanno il loro una volta che danno merito un parere saggio e non le ascoltiamo? Mosè Giacomello, presidente Ivapitali, è interessato a un'altra tassa, tant'è vero che partecipa a una protesta oggi, è una tassa che ha incuriosito molto i cani e i gatti e soprattutto Oscar, ed è l'imposta che si è abbattuta sulle cosiddette sigarette elettroniche. Buongiorno. Buongiorno Telese, buongiorno Giannino. Allora, sì. Siete sul piede di guerra? Anche voi volete un antitrust che vi salvi? Ma noi siamo sul piede di guerra per due problemi: una tassa assurda su questo prodotto e un emendamento che oramai è legge all'interno della legge di stabilità, che porta tutto il mercato sotto il completo controllo del monopolio di Stato. Quindi per questo motivo domani mattina l'intero settore si ritroverà davanti a Montecitorio per manifestare il proprio dissenso e la propria voglia di sopravvivere, perché a queste condizioni il settore rischia di scomparire, e con lui 10.000 posti di lavoro, oltre 2.000 dettaglianti ed aziende di produzione. Oscar, tu sostieni che in qualche modo sia un modo per fare cassa? No, io ho il dubbio per i tipi di interventi che sono abbattuti come magli su questo settore che si stava sviluppando nel tempo, anno dopo anno. Io ho il dubbio legittimo, siccome il legislatore è vero che lo critico spesso accusandolo di essere cieco, sordo e inabile all'esercizio del cervello, però l'intenzionalità inizia a essere una nota dominante della reiterazione di questi interventi. Quindi, sai, a un certo punto uno pensa, evidentemente, rispetto a quanto guadagnano sul tabacco, stroncare sul nascere un'alternativa che tra l'altro è meno rischiosa per la salute. Lo so, ci sta ipotizzando e pensar male, ma come diceva il buon Andreotti, a pensar male talvolta non si sbaglia. Del resto il fatto che la violenza e gli effetti che ha esercitato su questo settore sono gli occhi di tutti. Violenza perché non c'è veramente quasi paragone di aggravi così brutali in unità di tempo così ristrette come quelle che questo settore ha registrato, pur in un ambito, quello della variazione delle accise dei tabacchi, che o la benzina, se vuoi, che sono significative, ma sono significative ma non di questa brutale radicalità, perché si è inventato sia sulla chiusa generale, sulla che cosa sia la materia a cui si applica, sia sulla nazionalizzazione, di fatto è così, della filiera a monte, ecco, sono interventi di una brutalità che evidentemente devono avere una finalità. A me viene in mente questa, magari il nostro ospite dirà che ce n'è un'altra, ma ecco, quale dottor può Giacomello, essere? Lei dice che di fatto, per come è pensata questa imposta, non solo colpirà il principio attivo, ma farà salire il prezzo di tutto, come dire, il prodotto, è così? Sì, il prodotto, che alla fine è composto da elementi che si trovano sul mercato, glicole, glicerina, aromi alimentari che troviamo nel reparto dolci al supermercato, un qualcosa che il consumatore può acquistare e miscelare da solo al costo di 10 euro al litro, sarà tassato di 500 euro al litro. Quindi potete immaginare quanto sia assurda questa imposta. No, come? Sarà tassato di 500 euro al litro? Esatto. Ma è una te l'ho cosa detto che è una cosa radicale. No, non avevo l'idea che fosse così enorme il meccanismo accumulante. Allora io vi facciamo gli auguri. Bisogna per fare riuscire così, perché se te lo dico io, tu giustamente la ritieni. No, 10-500 radicalità, è una cioè, esatto, c'è cioè una misura incrementale fronte alla quale uno dice: ma che cosa è avvenuto nel cervello di chi decide una cosa di questo genere? Ci deve essere una finalità. Ripeto, la radicalità di queste misure lasciano senza parole. Bene, allora grazie Giacomello, auguri per la nostra battaglia a favore di tutti quei fumatori che hanno scelto una via alternativa. Gli stili di vita, le idee sono sempre parte della nostra libertà, non solo... Bravissimo, no, grazie io a non voi. Fumo, non ho mai usato esatto, una sigaretta elettronica. Non parla a titolo personale, però esatto, ma ci battiamo per le libertà degli altri sempre. Allora ricordate 800 24 00 24 per chiamare in diretta, 349 238 6666 per intervenire. Oscar, che cosa hai spigolato dalla rassegna stampa di stamattina? Hai visto che casino, scusa il termine un po' provisco, però, sul generale Gallitelli? Qua ci sono due interpretazioni opposte sui giornali. E ti suggerivo quella della Verità, che dice Berlusconi ha tirato fuori questo nome perché in realtà vuole arrivare a Gallitelli, quella di Repubblica che dice Berlusconi sa già che Gallitelli è un nome che non è disponibile, però lo usa come effetto immagine. Cosa ti colpisce di più? Ma noi abbiamo raccolto, di sicuro Gallitelli non sapeva niente. Detto questo, quindi lo dico anche a tutelare il nome dell'ex generale rispetto all'utilizzo che se ne fa nella vita pubblica. Ma al di là di tutto questo, secondo me sono tre gli aspetti. Berlusconi naturalmente sapeva perfettamente di utilizzarlo in maniera un po' disinvolta, ma da una parte testa l'opinione pubblica, non solo la sua ma trasversale, su nomi da proporre al Quirinale che, come si vede, sono sorprendenti perché non sono, tra virgolette, suoi. E io credo che così farà. Allora, primo di tipo però ordine e sicurezza, cioè Berlusconi ha un Minniti non iscritto al partito, ecco, e ne può avere diversi, è un segnale per testare. Secondo, attenzione, c'è anche un segnale a Renzi. Berlusconi propone uomini non suoi per il governo e addirittura per guidarli. Attenzione, c'è un segnale politico anche a... dici il contrario di quello che fai tu, che proponi te stesso. Ma forse questo io Berlusconi non credo neanche che creda che davvero Renzi propone se stesso. Berlusconi conduce una serie di lotte politiche su piani diversi. Un conto sono le proposte elettorali, che ne so, il raddoppio, 5 miliardi di costo dell'integrazione al minimo delle pensioni sociali, oppure lo ius soli giustificato dicendo no, ma questi sono bimbi, i bimbi sono no ius soli perché i bambini sono figli di gente che odia gli ebrei, lo Stato, la Chiesa, i cristiani, eccetera. E vabbè, poi ci sono anche più raffinati segnali politici. Questo è un raffinato segnale politico perché, ripeto, ordine e sicurezza, un uomo non suo, terzo, un messaggio anche per Renzi. Mi sembra chiaro, e volevo invece porti questa suggestione di un nuovo caso Cantone, praticamente un nuovo caso di una donna che gira un video e poi rimane intrappolata dentro questa minaccia, minacciata, e purtroppo con i ladri a casa, l'angoscia, fuggire dalla sua cittadina Porto Torres, andare alla Maddalena, non riuscire a liberarsi dell'assedio delle immagini. Questa è una maledizione del tempo. È una maledizione del tempo, adesso io stavo dicendo una cosa ma mi sono mosso la lingua. Il problema è la maledizione diventa tale per chi nel ritmo quotidiano della propria vita, nell'amministrazione della propria vita e della propria intimità, nel consentire accesso a una pluralità di persone, sbaglia in ognuna di queste tre cose fondamentali. Sbaglia perché si fida di chi non si dovrebbe fidare, sbaglia perché non ha idea che c'è un supporto digitale che resta più eterno di qualunque altra tua presenza e passaggio in questa vita. Gli amori e le idee cambiano, i supporti digitali restano eterni. E questa è la cosa che secondo me bisogna insegnare ai bambini da subito, cioè quello che loro fanno, le fotografie, gli scatti, quello che vedono altera in maniera irrimediabile, altera la percezione del tempo di sé. La percezione del tempo di sé è una cosa che posso aver detto una cosa e dopo un minuto nessuno se la ricorda. Non è così. E dimenticarselo espone a cose per cui addirittura poi la gente, come in questo caso, drammaticamente si leva la vita. Senti, ma non è spropositato questo spazio che si sta dedicando alle fake news? Io non ci ho capito niente. Ma guarda, no, io ho capito chi che contro che chi. Allora, ho tre rapidissime idee. Primo, lo dico per il mestiere che facciamo e per l'importanza che gli annetto, non perché lo faccio io, che sono l'ultimo dei cretini, ma perché è fondamentale nella storia di ciò che a noi piace, cioè la libertà e la democrazia. Cioè Thomas Jefferson, ricordatevi quando un politico vi chiede una forma di censura per salvare il vostro libero, più libero formazione e convinzione, o è un cretino o sta mentendo, o è un cretino perché non capisce che la libertà si fonda sulla libertà di stampa, anche sui eccessi, e non capisce che toccare in ogni modo questa libertà di stampa significa farla andare perduta. Ecco, questa vecchia cosa di Thomas Jefferson resta vera e la sottolineo a chiunque dica che bisogna introdurre forme di censura, perché ci sarebbe questa presunta grande novità che sarebbero le fake news. Le fake news in politica esistono dai tempi di Pericle, esatto. Cioè cambiano gli strumenti attraverso cui si utilizzano. Erodoto era un tempo sui cocci, collezionista dei vasi, e oggi si usano invece con le piattaforme digitali. E terza e ultima cosa, come vedete però, cari ascoltatori, potete non credermi, ma riflettete sul fatto che ognuno dei protagonisti della lotta politica italiana attribuisce le fake news agli altri. E mi dispiace ci siano anche alcune giornalisti che sono preda a una cosa che io rispetto molto, ma alcuni sono proprio sette righe sopra, convinti del fatto che esiste questa grande battaglia di civiltà, come se si fosse combattere gli alieni, e solo loro la incarnano, mentre gli altri sono tutti servi di questi. Ci sono alcuni colleghi che a volte, Madonna, mi come siamo d'accordo oggi, io direi quello che la politica non capisce lo definisce fake news. Cioè, ovviamente esistono le bufale, esistono le panzane, ma poi non è che sono diverse. Putin utilizza queste web cose. Certo, noi utilizzavamo mica solo Radio Free Europe alla luce del sole per decenni. Cari ragazzi, non so se ve ne siete resi conto, ma le psyops sono sempre esistite l'uno contro l'altro. Ripeto, non è una particolare novità. Però attenzione, perché adesso ci diranno che noi sminuiamo. No, il non sia mai pericolo. Allora ci fermiamo per la pubblicità e torniamo con Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, e per spiegare che cosa sta accadendo in questo braccio di ferro con il governo su tutto, a partire dalle pensioni. A fra poco. Rieccoci, 8:35, 40 secondi, voi siete nel traffico, siete a casa, state andando al lavoro, state pensando come organizzare la giornata, e noi siamo qui. E non dovete pensare agli 81 adempimenti fiscali che scadono giovedì, perché sennò andate fuori strada, è meglio che non ci pensate. Tax day da 32 miliardi, un'altra rasoiata del signor Stato. 349-238-6666 i vostri messaggi, 800-24-00-24, e abbiamo Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, buongiorno. Buongiorno. Allora, che succede in questa trattativa di questa finanziaria, che prima ancora di questa manovra, che prima ancora di essere varata si muove, si sposta, viene tirata da una manica, si gonfia secondo gli incubi peggiori di Oscar. Ogni giorno. Ma era chiaro, in tempi elettorali. No, ma il punto, secondo me, segretario della CISL, ci faccia capire su quanto alla fine il governo ha formalizzato per quanto riguarda la questione app social e categorie a cui estendere la deroga per lo scatto del requisito anagrafico previdenziale di vecchiaia. Dal vostro punto di vista è stato un passo, non mi soddisferà in tutto, ma comunque ragionevolmente accettabile, oppure resta ancora il più della questione posta da voi aperta e priva di soluzione? Guardi, l'emendamento proposto dal governo che è passato è assolutamente coerente con il verbale che ha caratterizzato l'ultimo incontro. Una trattativa complessa, come sempre le trattative su temi previdenziali, ma che credo abbia risposto coerentemente all'accordo che noi avevamo fatto con il governo. In 3 anni 7 miliardi per la previdenza mi sembra che sia un risultato abbastanza soddisfacente. Certo, rimangono in piedi alcune questioni, ma penso che nessuno possa immaginare di mettere mano al tema così delicato come quello previdenziale in 448. È evidente che ci vuole un lavoro in progressione che rimetta mano in modo coerente a un sistema che dopo tanti interventi di tante riforme previdenziali come minimo potremmo definire un po' pasticciato e sicuramente iniquo. L'anno scorso abbiamo dato già alcune risposte, la 14ª per i pensionati sotto i 1.000 euro, il cumulo gratuito che è molto importante soprattutto per i giovani e l'APE sociale. Quest'anno siamo intervenuti sull'aspettativa di vita per quelle categorie che per mestiere svolgono mansioni particolarmente gravose, Anna Maria, alle volte anche pericolose. Sì, la fermo solo un attimo sull'APE social. Uno, per chiederle se ha letto Repubblica, che oggi dice addirittura c'è un caos, cioè che nessuno riuscirà materialmente, sì, a riceverla entro fine anno. Il secondo, diamo un'informazione di servizio, mi pare di capire si è aperta una seconda finestra e si chiude giovedì. Qui si aprono, si chiudono finestre, bisogna infilarsi in mezzo, neanche 007, sì, purtroppo, guardi, come l'immagine per accedere. Esatto. Nel nostro paese la burocrazia e il poco dialogo tra gli istituti diversi dello Stato creano problemi invece che risolvere problemi. C'è mancanza di dialogo tra l'INAIL e l'INPS, ritardi, letture restrittive, troppo restrittive, diventano invasive, tanto sono restrittive, che hanno creato, come spesso succede, ecco, ma quando lei dice caos letture e ritardi restrittive, sono state fatte apposta per dare una norma e poi limitarne l'accesso, come dire, in base di accettazione, non credo, delle domande? Guardi, o è proprio la burocrazia italiana che è un io mostro? Io sono convinta che sia esattamente quello. La poca capacità, troppe volte l'abbiamo registrato, della burocrazia di incidere tempestivamente rispetto alle cose. Spero che anche con gli incontri che abbiamo fatto con l'INPS, con l'INAIL, insieme al Ministero, si siano un po' sbrogliate le matasse, ecco, e che quindi questi lavoratori possano in tempi davvero celeri ritrovare il riconoscimento del loro diritto. Bene, la prima telefonata di oggi, Roberto da Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno, io quando sento la parola IMSS mi vengono i peli dritti. La mia colf che 11 anni fa ha deciso di tornare al suo paese, abbiamo risolto il rapporto di lavoro con una comunicazione come previsto a IMSS, con la raccomandata eccetera, tutto in maniera regolare. Oggi dopo 11 anni l'IMSS pretende che io gli faccia avere una copia di quella dichiarazione, una copia di quella raccomandata, perché altrimenti mi chiede di pagare una penale, mi chiede di pagare tutto quello che secondo lei io non ho pagato da quella data in poi. Cioè, le chiedono gli arretrati come se non, sì, si fosse mai interrotto il rapporto di lavoro. Mi ha fatto un accertamento, esattamente. Ovviamente la Furlan non è una controparte, però conosce, e proprio a questo forse che faceva riferimento. Esattamente, problema, guardi. Finisca, scusi. Il problema non è solo l'INPS, il problema è che vuol dire che io mi devo tenere dopo 11 anni una raccomandata che ho spedito all'INPS, ovvero mi possono chiedere qualsiasi cosa anche quando. Per sempre. Anna Maria Furlan. Sì, purtroppo è una testimonianza, credo, molto coerente con le cose che avevamo affermato prima. E quando noi parliamo di digitalizzazione, industria 4.0, i primi interventi dovrebbero essere proprio fatti dentro lo Stato. La vera grande riforma della pubblica amministrazione deve partire da questo. Come efficientiamo la pubblica amministrazione se ancora oggi viene richiesto il cartaceo dopo 11 anni a un cittadino o una cittadina? Ci sono gli strumenti, bisogna investire in innovazione anche nella pubblica amministrazione, e anche qua la logica di uno svecchiamento, chiamiamolo così, del personale, credo che vale per le industrie private, ma vale anche ancora di più per l'amministrazione pubblica. Mi sembra ottimo. Sentiamo Renato da Brescia, dovrebbe essere proprio partire dal pubblico. Buongiorno Renato. Buongiorno a voi. 800-24-0024 per intervenire, prego. Buongiorno a tutti, e buongiorno anche alla signora Furlan. Buongiorno. Mi perdoni, io ho ancora una perplessità, ma siete ancora i rappresentanti dei lavoratori voi? Beh, non faccio domande così polemiche, dica quello perché che pensa. Quello che penso è che la stortura della Fornero è davanti agli occhi di tutti. Non più di 8 giorni fa la signora Furlan parlava ancora di correzioni della Fornero, e adesso viene ad aprire una trattativa dicendo che qualcosa bisogna portare a casa. Stile sindacato di 150 anni fa, credo. No? Allora, cari lavoratori, potevate morire, beccatevi un tumore maligno, però qualcosa abbiamo portato a casa. Non funziona così. Non va funziona bene. Così, signora Furlan. Allora, le risponde la Furlan, solo una cosa di metodo. Uno può fare qualunque domanda qui in questa radio perché è libera e i nostri interlocutori accettano qualunque domanda. Solo che non c'è bisogno di essere provocatori, come dire, non rappresenti no, più i lavoratori io, perché non sei d'accordo con me. Io personalmente esprimo invece una nota di orrore per quanto gli italiani si siano fatti mettere in testa che la riforma Fornero sia la cosa che, come ha detto il nostro ascoltatore, provoca morti e tumori. Se un decimo dello sdegno che riservate a questa misura, che è stata assunta in quel modo tardivamente perché per decenni i politici vi hanno preso per il naso sull'insostenibilità dei conti della Previdenza, e se continuate a ignorare in maniera così bieca e proterva che tutti gli sfondamenti che invocate, no? Abbattiamo la Fornero, magari minacciamola anche fisicamente, ma uno come può avrebbe, non essere d'accordo, viene con pagato dalle giovani generazioni, non con questi toni, sì, perché sono falsificatori della storia, capisci? E oltretutto portano ad altri disastri, deficit previdenziale, che ripeto pagano i giovani. Io mi limito a sottolineare questo, caro ascoltatore, Lea Furlan le ha detto il rilievo dell'impegno nei prossimi anni in termini di 7 miliardi per gli interventi che sono avvenuti in questi anni della Previdenza. Pensi che a fronte di questo abbiamo faticato, noi che ci battiamo per i caregiver, cioè per 3,3 milioni di italiani che si occupano a casa di malattie con patologie, di bimbi inabilitati o di malati cronici, di ottenere 20 milioni l'anno prossimo. Ci danno 20 milioni per la causa dei caregiver, che sono sicuro e anche, sta anche a cuore ovviamente alla Furlan, però non usi questo tono perché francamente è un po' ridicolo. Allora sentiamo la Furlan, ripeto, qui ogni opinione è legittima, anche quella che non condividiamo, non l'ingiuria diciamo personale. Prego. Guardi, il tema della malattia, della cronicità e del rapporto con il lavoro è un tema molto serio che andrebbe affrontato in modo serio. Non a caso, proprio per l'accesso all'APE sociale e quindi per poter andare anticipatamente in pensione, tra le diverse categorie ci sono i lavoratori e le lavoratrici che sono impegnati in lavori di cura. Nella famiglia troppo spesso purtroppo capita di dover seguire una persona malata con un handicap grave, con una malattia cronica grave, e l'aver costituito una flessibilità di accesso alla pensione potendo andare in pensione a 63 anni ha proprio tenuto conto di queste drammatiche circostanze in cui alle volte nella vita ci si ritrova. Io credo che non serva esasperare nei toni e nei modi, serve fare cose serie compatibilmente con i tempi e nella situazione economica che viviamo. Credo che proprio per questo sia stato un buon accordo, cioè io ho capito... perché ha tentato di dare risposte, seppure nelle ristrettezze delle risorse, partendo dalle difficoltà delle persone. Cioè io ho capito che lei sta dicendo, oggi questo è il miglior accordo che io, Anna Maria Furlan, mi sento di sottoscrivere, ma in futuro bisognerà tornarci? Ho capito così? Ma guardi che nell'accordo c'è scritto molto chiaro. Sì, sì, ma lo spieghiamo. Che l'anno scorso abbiamo fatto alcuni provvedimenti sicuramente vantaggiosi per i lavoratori e le lavoratrici, tenendo conto di tutte e tre le generazioni, perché non abbiamo bisogno di sconquassare la questione sociale, anzi al contrario vanno tenute insieme in alleanza le varie generazioni. Quest'anno ci siamo occupate di una questione molto complessa che pesa sulle spalle dei lavoratori, che è quello dell'aspettativa di vita, partendo ovviamente dai lavoratori che hanno lavori più pesanti e che proprio per questo hanno bisogno che venga bloccata da subito l'aspettativa di vita. Nell'accordo però c'è scritto che prosegue questa analisi, viene istituita una commissione istituzionale in cui, con la buona pace del signor Renato, faranno parte anche esperti di CGIL e CISL per verificare mestiere per mestiere la reale aspettativa di vita, e viene istituito un fondo economico ovviamente in cui andranno tutti i residui, tutti i risparmi, tutto il non speso in termini previdenziali, proprio per allargare anche ad altre categorie l'APE sociale. Certo, ognuno di noi avrebbe voluto di più, ma fare accordi Furlan, scusi un secondo, le posso chiedere, quindi esigibili, una cosa? È assolutamente di buon senso. Ma secondo lei il buon senso è dedicare ogni anno 4 mesi di tutte queste energie che tutti, tra politici e sindacalisti, mettete su questa questione dell'età pensionabile, dei requisiti di anni di versamento, eccetera, eccetera, rispetto a un paese che ha la condizione, ripeto, non solo un enorme problema di povertà col welfare italiano che non è orientato a quello, noi abbiamo il 75% della spesa sociale orientato agli over 65 anni in questo paese. Questa roba qui non nasce da una volontà persecutoria verso i lavoratori, nasce dal fatto che non c'è proporzione tra l'energia spesa e le risorse spese, rispetto al fatto che sono molto limitate, su questa questione rispetto a quella della bassa occupabilità giovanile, del fatto che ci mancano le politiche attive del lavoro, del fatto che abbiamo 4,7 milioni di poveri. Però, Oscar, quest'anno gli iniziamo a dare un po' di re in più, ma non esiste un paese in cui il patrimonio e il reddito lo hanno difeso, non si sono arricchiti gli over 65 anni, lo dice la Banca d'Italia, mentre le giovani generazioni hanno base 100, in 15 anni sono a 40 di patrimonio. Io non lo so, mi pare di venire da un altro pianeta, e ogni anno diventa sempre più il tempo e le energie dedicate a questa questione. Oscar, però questo tema non è solo il tema degli anziani, è il tema anche dei giovani di domani. No, cosa giovani, prenderanno? No, i giovani di domani intanto hanno altri problemi, non il questo. Futuro dei I giovani, giovani di domani. Oggi sono quelli che devono pagare i contributi per questo deficit previdenziale che si aggiunge. È tutto qui. Paolo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo segnalare in merito all'ascoltatore che ha chiamato prima dicendo l'INPS dopo 11 anni mi ha richiesto un documento. È uscita una circolare dell'INPS un paio di settimane fa, dove si riduceva il tempo da 10 anni a 5 anni per richiedere indietro i contributi, qualora qualcuno se ne accorgesse, per richiederli indietro. E ovviamente questa circolare, per parlare poi anche di inefficienze, riporta che siccome è molto complicato l'hanno posticipata a gennaio 2019. Esattamente. Ora, e quindi i termini sono ancora 10 anni più il tempo della pratica, quindi a 11 anni gliela possono ancora chiedere. Sempre a livello di inefficienza. C'è la simmetria del dare e dell'avere. Mia moglie è una dipendente pubblica, ho fatto il controllo dei contributi IMSS, ho sempre lavorato col Comune di Roma e ci sono parecchi buchi, quindi adesso dovrò attivarmi per fare tutti i controlli, portare tutta la documentazione, ripeto, un rapporto di lavoro continuativo sempre con lo stesso datore di lavoro che è il Comune di Roma, e risultano dei buchi, quindi adesso mi dovrò attivare. Questo è per spiegare tutta l'inefficienza di tutto il sistema, insomma. E non sono casi isolati, perché Mario da Sago in questo momento ci scrive con un messaggino: anch'io sono nella stessa condizione, devo giustificare la risoluzione di un rapporto di lavoro con una colf dopo 11 anni. Pensa. E ci risiamo. Anna Maria, se vuole aggiungere qualcosa, poi ci salutiamo, perché immagino che avrà molto da fare questa mattina. Come vuole concludere? Guardi, questa mattina devo incontrare qualche migliaia di nostri delegati e di nostre delegate, tutta la settimana sarò in giro per l'Italia ad ascoltare i nostri delegati e le nostre delegate, non solo sulla previdenza, e arriva ad alcune questioni davvero importanti che ha posto il dottor Giannino. Innanzitutto è vero, in questo paese noi abbiamo una priorità, che è l'occupazione giovanile, che è il lavoro in termini generali dopo 10 anni di crisi, ma soprattutto l'occupazione giovanile. Non a caso, non è vero che ci siamo occupati solo di previdenza, vi assicuro che le stesse energie le abbiamo occupate, se vuole anche con forse maggiore tensione, rispetto all'alternanza scuola-lavoro, rispetto all'apprendistato professionalizzante, rispetto ai temi che sono l'occupazione dei giovani, che accanto alla previdenza abbiamo trattato. Bene. Non certo con meno impegno al tavolo del Ministero del Lavoro. I giovani oggi hanno bisogno di lavorare. Bene, la mettiamo... prima cosa da fare per crearsi un futuro pensionistico sereno è quello di creare condizioni di lavoro dei giovani. Sono assolutamente d'accordo. Mettiamo agli atti questo auspicio, la ringraziamo. Luigi da Pordenone. Buongiorno, buongiorno, come sta? Da Pordenone, io sono un dipendente dell'azienda di telecomunicazione di TIM. Volevo dire questo, lo chiedevo alla Furlan, perché tra l'altro sono anche un loro iscritto. Ah. Io vorrei capire in INPS come si fa a poter separare l'assistenza dalla previdenza e sapere ognuno delle due cose quanto pesa in questo volume di spesa. Questa è la prima. La seconda: perché non c'è la possibilità di una contrattazione privata? Se io voglio destinare una parte del mio attuale reddito alla previdenza di mio figlio che entrerebbe nel mondo del lavoro, io sarei anche disposto a farmi da parte, fornero o non fornero. Però la cosa dovrebbe essere diretta, io voglio investire su di lui, sul suo lavoro. No, e non può farlo. Un sistema di ripartizione, lei non si sceglie a chi fa solidarietà, l'ereditarietà. Io infatti voglio il sistema a capitalizzazione, così la spezziamo questa catena di ipocrisia, che è quella purtroppo che porta il sistema solo agli interessi di chi è avanti con gli anni e a ignorare quelli di chi paga, di chi è più giovane. Ma che tu non avrà... sei contrario ai principi o all'idea del nostro ascoltatore? No, io sono col sistema attuale non si può fare, no, ci mancherebbe altro. Ma in linea di principio ti convincerebbe? In linea di principio, se è un sistema di capitalizzazione, siccome quello che versi torna solo a te, puoi farne quello che vuoi, puoi anche non versare nulla, puoi rimanere scoperto, tranne che poi ovviamente ci deve essere un minimo che lo Stato deve occuparsi, che ognuno abbia la propria tutela nel sistema di capitalizzazione. Però ripeto, la Furlan può dire quello che vuole, le risorse date alle pensioni non sono minimamente comparabili, sono multipli di quelle che date all'occupabilità giovanile, politica attiva, poveri, multipli, ed è un problema di concentrare nei propri iscritti, come i politici si occupano degli anziani che sono quelli che votano di più, i sindacati si occupano degli over cinquantenni e dei pensionati. Allora grazie, salutiamo tutti, il pensierino di 10 secondi. Il pensierino di 10 secondi: in Francia minacciano una multa fino a 9,6 miliardi alla Fiat, hai visto? Incredibile i francesi, chissà, un pochino anche pizzicarda in Italia non sarebbe stato male, mentre noi abbiamo fatto i controlli invece del Rio come Ma voleva. No. Come voleva, è tutto come voleva. Politiche anti-italiane. Sei contro i consumatori e per le truffe.